Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rubrica che due volte alla settimana vi aggiorna su quanto c'è di nuovo, quanto c'è di interessante, tra il molto che naturalmente c'è sempre di interessante sui periodici italiani e non solo italiani. Oggi cominciamo giocando in casa, come si dice, perché? Perché da ieri è in edicola con il Sole 24 Ore, con il nostro quotidiano, anche il mensile 24. 24, come sapete, come sanno coloro che magari ci ascoltano più di frequente, è un mensile che noi citiamo spesso quando viene presentato insieme al Sole 24 Ore, ma abbiamo avuto anche il piacere qualche settimana fa di parlare con Fernanda Roggero, che è appunto la collega che all'interno del Sole 24 Ore si occupa di preparare questo mensile. E come ci aveva anticipato appunto la collega, il mensile sta seguendo una scaletta molto precisa che è composta da una serie di argomenti, una selezione di argomenti. Abbiamo cominciato a gennaio parlando del corpo, poi si è parlato di soldi, adesso si parla di tecnologie. Tecnologia è quindi il tema che viene affrontato da 24 questo mese e viene presentato con una introduzione molto divertente che vi voglio leggere rapidamente. Dice: quel bicchiere in più di champagne ieri sera mi ha alzato il diabete. Accidenti a quando ho accettato di mettere in bagno i sensori che misurano tutti i miei dati clinici nel tempo di una doccia. Per fortuna la mia cartella medica è accessibile solo a pochi occhi selezionati da me, quindi mia figlia, salutista talebana, non potrà sgridarmi come al solito. Adesso mi stampo una bella tuta comoda e aspetto la mia amica, viene per farmi morire d'invidia, a mostrarmi il suo nuovo terminale oculare, lenti a contatto interattive che proiettano direttamente dentro la retina informazioni in sovraimpressione. La storia del quadro che sto guardando, la via più breve verso il ristorante e così via. Ecco, tutto questo, come appunto dice l'introduzione di 24 di questo mese, non è troppo una fantasia, perché potrebbe in realtà rivelarsi la semplice cronaca di una mattina qualsiasi di qui a, diciamo, 20 anni. In questo numero, quindi 24, scrive Fernanda Roggero, ha deciso di esplorare alcune di queste tecnologie che ci cambieranno la vita nel giro di qualche decennio, come potrebbe essere, non so, la benzina estratta dall'aria catturando semplicemente il carbonio, o il superadesivo perfettamente biodegradabile derivato dalla cozza, il bisturi che sfrutta l'energia solare e addirittura le biostampanti di organi. Questa giornata nel futuro poi viene descritta, diciamo, ora per ora, proprio all'interno di 24, da un interessante, stavo per dire divertente, sì è divertente ma è anche interessante, perché le cose di cui questo articolo parla in realtà rappresentano solo dei minimi prolungamenti in qualche caso di tecnologie già disponibili o quasi pronte per la loro commercializzazione. La giornata ora per ora è raccontata da Antonio Dini. L'inizio è appunto quello che poi ha dato lo spunto all'introduzione, quindi alle 7 suona la sveglia e ci si sveglia in una campagna francese. Dice: ieri sera mi sono addormentato sotto un tramonto caraibico, mi fossi dimenticato di risettare il mio simulatore polisensoriale, questa mattina non mi sarei alzato più. Alle 8 check up completo, e si chiede Antonio Dini: chissà come faceva mio padre senza questa nuvola di sensori sottili come polvere che raccolgono dati su di me mentre mi faccio la doccia o mi lavo i denti. Mi risparmia un bel po' di inutili visite da dietologi, medici, psicologi, personal trainer, però è una scocciatura sapere che la baldoria di ieri sera rimarrà come una macchia indelebile nel mio dossier salute. Questa giornata perfettamente tecnologica, ipertecnologica, che ripeto è una giornata immaginata di qui a 20 anni da Antonio Dini, dice: immagina anche che in ufficio non ci vada quasi più nessuno. Infatti ore 9, scrive Dini, mi piace proprio venire in ufficio ora che non è più obbligatorio. Se sono fortunato, anche oggi sono qui da solo. Saluto le figure baluginanti dei miei colleghi che sono in telepresenza. Mi godo una sensazione di libertà. Fatico a star fermo quando devo concentrarmi. Mi piace zigzagare tra loro, gesticolare in maniera scomposta, apposta, tanto i miei movimenti e la mia voce vengono colti senza problemi dalle interfacce naturali. E finalmente si riconosce che anche il lavoro di concetto è un'attività fisica alla faccia delle generazioni precedenti che erano incollate alla sedia. Qui si gioca un po' naturalmente con il concetto di telelavoro, che però, come sappiamo, è già una realtà, cioè è già praticato, praticabile in qualche modo, anche se con qualche diavoleria tecnologica di meno. Alle 14 per una uscita in cantiere si immagina che ci si possa stampare addirittura una tuta su misura, una tuta che è stata acquistata, il cui modello digitale, scrive Dini, ho acquistato per pochi euro in rete. In cantiere sapranno certo apprezzare l'ironia, e loro, per governare con la forza del pensiero le scavatrici, amano indossare giacca e cravatta. Alle 18 si immagina che questa giornata sia finita, quindi una tecnologia, un futuro che dovrebbe anche lasciarci del tempo libero, quello che viene immaginato, e così via. Si va avanti sull'onda di queste invenzioni futuribili, questa sorta di racconto di una giornata, come sarà una nostra giornata tra 20 anni, fino alle 23, quando ci si può addormentare scegliendo quale ambiente ci deve tenere compagnia per addormentarci. Questo è una delle, appunto, delle suggestioni, delle proposte che vengono presentate dentro 24 di questa settimana, dedicato appunto alla tecnologia. Ma poiché la tecnologia, ohimè, non è solo buona, non è sempre neutrale, naturalmente si parla anche di armi del futuro. Quali possono essere le armi del futuro? E allora lo stesso Dini è poi andato a chiederlo a Bruce Schneier, che è uno dei massimi esperti di sicurezza digitale al mondo. Qui diciamo che il concetto di esplorare che cosa ci succederà tra 20 anni viene un po' meno, si parla in realtà di cose che già stanno succedendo ora. Il titolo della conversazione con Schneier è Conflitti a reti unificate, e vediamo perché. Dice: noi oramai digitalizziamo tutto, la nostra memoria di individui, società civile, imprese, istituzioni viene progressivamente tradotta in un linguaggio numerico, interconnessa nella rete, e a questa rete si collegano via via anche gli oggetti dei quali ci circondiamo. Così si aprono possibilità impensabili solo fino a pochi anni fa, ma ci esponiamo forse anche a rischi inediti. E non a caso, avverte infatti 24, è comparsa di recente una parola nuova, cyber warfare, che più o meno vuol dire guerra digitale. Militari e politici hanno cominciato, insomma, a occuparsi dell'eventualità che, in caso di un conflitto con un altro paese, i combattimenti possono spostarsi sul piano elettronico, e quindi che esistano, che si possano preparare delle armi digitali usate per attaccare le infrastrutture informatiche, e infrastrutture informatiche che, come sappiamo, oramai governano sempre di più le nostre vite. È difficile immaginare allora che forma possa assumere una guerra del futuro. Bruce Schneier, che è padre di alcuni degli algoritmi di crittografia più diffusi, più sicuri al mondo, è un esperto di sicurezza interpellato dal governo americano, sostiene però che molti di questi pericoli, sostiene in questa conversazione con 24, sono più immaginati, sono più vicini alla fantasia degli scrittori che non alla realtà. Rassicura Schneier, pur partendo da un dato di fatto un po' preoccupante. Dice: le armi digitali esistono, sono armi che i militari usano nel cyberspazio, cioè in rete, sono armi con cui si possono attaccare gli eserciti di un altro paese, bloccando principali canali di comunicazione, bloccando la popolazione civile. Niente a che vedere, precisa sempre Schneier, con il cyberterrorismo, cioè col terrorismo digitale, dal semplice hacker che si introduce in una banca dati molto delicata fino a chi invece vuole alterare, che so, il meccanismo di governo di una centrale elettrica, di una centrale nucleare. Ma tutto sommato Schneier è abbastanza ottimista sulla possibilità di controllare questo tipo di evoluzioni. Dice: quali sono, gli chiede Antonio Dini, i rischi di una guerra digitale? Ma, dice Schneier, per noi nel mondo industrializzato direi nessuno. Io non vedo la possibilità che ci siano dei veri e propri conflitti nei nostri paesi. Se ce ne dovessero essere, probabilmente si tratterebbe più di guerre fatte ancora nel modo tradizionale, con i carri armati, con le bombe. Il rischio addizionale posto dagli attacchi informatici sarebbe minimo. Il potenziale invece terroristico di questo tipo di armi è più preoccupante, però va anche detto che Abbiamo già avuto, dice sempre Schneier, blackout che hanno lasciato al buio decine di milioni di persone negli Stati Uniti, negli altri paesi. Ci sono stati eventi di primaria grandezza, abbiamo visto l'intero sistema dei satelliti per le telecomunicazioni bloccarsi e quindi eventi diciamo di portata di rilevanza globale, ma che, è il commento di Schneier, in nessun caso sono stati percepiti come frutti di atti terroristici né soprattutto ricordati in termini anche lontanamente apocalittici. Naturalmente questo non significa che non si debba vigilare, è uno dei compiti di Schneier e questa è una delle cose che trovate appunto su 24 in edicola da ieri con Il Sole 24 Ore. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di tecnologia e questa mattina vogliamo proprio chiacchierare di tecnologia con Giorgio Mulè, che è il direttore di Panorama e che è collegato telefonicamente con noi. Buongiorno direttore. Buongiorno, grazie della disponibilità. Perché parliamo con Mulè? Non ne parliamo una volta tanto per gli articoli che citiamo sempre, direi ogni settimana, un po' da Panorama, diversi articoli sui diversi argomenti che il settimanale ospita, ma perché questa volta parliamo di una pubblicità molto particolare, provo a dirla io, poi sì. Il direttore lei mi correggerà, insomma. Non ti preoccupare, sarò inflessibile. Allora, Panorama questa settimana potete trovarlo in alcune edicole in realtà, sì. A Milano e Roma, vero? E poi negli aeroporti, così in mi... Panorama e negli aeroporti delle due città. Esistono 10.000 copie di Panorama per i fortunati che riusciranno ad accaparrarsele, in cui abbiamo, come dire, abbattuto il muro tra la carta e il video, perché all'interno c'è una pubblicità che è costruita in questo modo con un sistema che si chiama VIP, che però vuol dire video in print, cioè video nella carta, video sulla carta, e in pratica questo inserto consente di visualizzare 45 minuti fino a 45 minuti di contenuti video che sono però dentro il settimanale di carta, cioè dentro Panorama. Direttore, cosa ho sbagliato? Finora nulla. Meno male. Finora promosso. Ma perché questo esperimento? Panorama tra l'altro ha già fatto delle cose per realtà aumentata, come dire, andare oltre la carta. Abbiamo fatto prima il QR, che è il codice QR che permette di ricevere dalla carta sul telefonino dei contenuti multimediali, dei video, degli audio o anche il rimando a una pagina web. Siamo andati avanti con la realtà aumentata che, come dicevi, permette di abbattere il muro della carta dando una realtà tridimensionale attraverso la webcam sui nostri computer. Adesso abbiamo fatto il terzo passo, che è il più importante per noi, quello più sfidante e quello che più ci ha coinvolto in questa operazione, che è, come dicevi, il VIP, il video in print. Il video in print è uno schermo, come dicevi, che è spesso 3 mm, quindi è assolutamente invisibile, non se ne accorge nessuno che è dentro il giornale, che peraltro ha lo stesso costo di un giornale normale, e ha questa favolosa possibilità che per la prima volta, peraltro fammi dire con una punta d'orgoglio al mondo, viene portato in edicola e consente di avere, come dicevi, questi 45 minuti video. La prima operazione l'abbiamo fatta appunto in termini pubblicitari, però presto sbarcheranno su questi 5 canali, si attivano attraverso 5 pulsanti su questo strumento, anche dei contenuti di tipo editoriali. Vorrei ricordare peraltro che è una televisione che non muore mai, nel senso che è dotata di 80 minuti di ricarica con una batteria, però ha anche una chiave USB che è quella che si collega e quindi si ricarica all'infinito. È una frontiera nuova, straordinariamente sfidante per chi fa i giornali, perché permette di far vivere nella carta uno strumento che noi pensavamo fosse impensabile, che è la televisione, contenuti video e di tipo multimediale. Guarda, credo che la persona più preoccupata o l'unica persona più preoccupata possa essere io, perché mi sarà poi difficile raccontare, come dire, nello spazio di Magazine 24 il video, però si capisce bene, credo che tutti i nostri ascoltatori capiscano bene che razza di barriera si va ad abbattere appunto potendo inserire delle estensioni video, delle possibilità di canale video alla carta stampata più tradizionale, quella a cui siamo abituati, insomma. La qualità qualità è straordinaria, perché sono, il video è ad alta risoluzione sia come contenuti sia come contenuti audio. È quello che succederà molto presto, come quando arrivarono i primi telefonini, i primi computer. Io immagino che di qui a un anno ci sarà un'evoluzione di questo strumento, con una corsa a farli, come dire, sempre più fruibili, perché obiettivamente ha dei costi molto elevati produrre un oggetto del genere. Però sono delle sfide che oramai la carta e chi fa giornali non può permettersi di non affrontare. Viceversa significa chiudersi in un angolo e vedere quello che succede intorno a noi senza entrare e senza andare laddove peraltro chi fruisce di informazioni e chi fruisce dei giornali sta andando, cioè i telefonini, i computer o la televisione. Certo. Beh, noi ringraziamo allora il direttore Giorgio Mulè, ci ha spiegato come per adesso per il tramite di un inserzionista, nel caso si tratta poi di una inserzione di automobili, però per il tramite di un inserzionista qui si sta cercando davvero un nuovo modo di creare questi media, i magazine che noi vediamo tutte le settimane, che potrebbero cambiare, secondo appunto il direttore Mulè, potrebbero cambiare molto rapidamente sotto le nostre mani. Grazie, buona giornata direttore. Buona giornata. E allora abbiamo sentito come potrebbero cambiare davvero molto rapidamente anche i magazine, vedremo se questa rivoluzione, questo cambiamento, queste innovazioni tecnologiche prenderanno rapidamente piede, sembrano esserci tutte le prospettive. Per intanto salutiamo con piacere un altro prodotto che invece è tornato in edicola, torna prodotto su carta, si tratta di Newton. Newton si è presentato con questo primo numero nel marzo appunto 2010. Il numero viene presentato dal direttore Cristiano Taglioretti proprio nella pagina 5, così si chiama la pagina che poi sarà dedicata via via nei vari numeri di Newton allo spirito di quel numero. Le sezioni in cui Newton è suddiviso sono 4, è interessante anche notare come le hanno suddivise. Una si chiama Darwin, le scienze dell'uomo; Leonardo, le scienze della società; Einstein è il nome della terza sezione, cioè le scienze della terra; e Galileo per le scienze dell'universo. Newton è in edicola questo mese a 3,90 euro. Ci sono ovviamente moltissimi spunti, adesso non vi sto solo a segnalare una cosa che si lega molto bene a quanto dicevamo prima per 24 e questa giornata tra 20 anni, l'uomo tecnologico, ovvero sia applicazioni che sono già allo studio, in qualche caso anche già disponibili, che potrebbero cambiare decisamente la vita: l'orecchio elettronico, il chip cerebrale, la gamba intelligente, la ricostruzione della pelle e così via, tutte cose che l'occhio digitale ancora, tutte cose che vengono rappresentate appunto da Newton in questo primo numero. E oltre all'uomo tecnologico, naturalmente anche l'uomo cibernetico, cioè la fusione tra le nostre dotazioni, come dire, di base e i computer, perciò un'interfaccia neurale, il fiuto elettronico, la pelle intelligente, davvero sembra completare in modo molto puntuale la mappa di questa, il diario di questa giornata di qui a 20 anni che abbiamo letto nella prima parte di questa puntata su 24. E allora, con la segnalazione di Newton, con le indicazioni delle novità che state per trovare o stiamo tutti per trovare in edicola, concludiamo questa puntata del sabato di Magazine 24. Vi do appuntamento a domani, domenica alla stessa ora, alle 8:30, saremo in onda con Magazine 24 per una nuova puntata. Io ringrazio Peter Bescapè per l'assistenza questa mattina, Margherita Aina e Vittoria Mussini, grazie come sempre, mi hanno aiutato a preparare questo programma. Ci sentiamo domani mattina.